in primo piano. Un saluto da Anna Migliorati. Non c'è con noi Giulia Crivelli questa settimana, tornerà dalla prossima, ma come sempre Radio 24 non perde l'occasione di ampliare lo sguardo non solo l'Italia, ma anche l'Europa e quegli equilibri internazionali. E allora lo spazio dedicato alla nostra rassegna stampa internazionale. Con una settimana, tra l'altro, che soprattutto per l'Europa è stata alquanto tesa dopo il vertice di Taormina e con sullo sfondo la frattura con gli Stati Uniti per la vicenda degli accordi di Parigi, ma non solo. Ve l'abbiamo ampiamente raccontato nelle nostre rassegne stampa, nei nostri giornali radio. Guardiamo però tutta la vicenda dal lato europeo. Potremmo dire che questa settimana in qualche modo ha sancito una svolta per l'Europa in termini di prospettive e di visione a lungo termine. Di certo già prima le elezioni olandesi e poi soprattutto quelle francesi avevano lasciato intuire un cambiamento in vista per il vecchio continente. Bene, questa settimana si è visto anche in maniera tangibile, quindi sulla stampa, soprattutto europea, l'argomento è stato ampiamente dibattuto. Allora, cominciamo da qui la nostra carrellata, cercheremo poi di raccontarvi comunque anche altri temi, perché come sempre è utile allargare lo sguardo e la prospettiva. Come non farlo però partendo dalla Germania per quanto ci riguarda, dalla Bild, il più diffuso giornale tedesco, giornale che non manca di sottolineare l'indignazione, dice, di tutto il mondo per l'annuncio di Trump, più volte rinviato nel corso della settimana l'annuncio sul clima che conoscete, ma guardando alle vicende interne riporta le parole del parlamentare della CDU, partito di Angela Merkel, Volker Kauder, che non teme reazioni a catena, ma aggiunge invece che con questi atteggiamenti l'America non avrà alcuna funzione di guida, e dice ancora l'importanza della Cina è invece in aumento, perché questa è la chiave di svolta, i rapporti con la Cina che sono l'altra faccia della medaglia della settimana negli equilibri internazionali. La stessa Bild qualche giorno prima titolava Angela Merkel stufa di Trump, titolo che abbiamo visto peraltro anche in Italia. Noi europei abbiamo realmente bisogno di prendere il nostro destino nelle nostre mani, sono le parole nell'apparizione ormai famosa a Monaco di Baviera. La risposta dalla tenda della birra, così scrive la stampa tedesca, scrive ancora la Bild, Merkel non è una donna che esclude qualcuno fin dall'inizio, e ovviamente il riferimento è a Trump, ma è anche una persona che non cambia le decisioni di nuovo così facilmente, lasciando un po' insomma intuire che difficilmente a breve termine cambieranno i rapporti. Tenda della birra a Monaco, che potrebbe essere un punto di svolta nelle relazioni transatlantiche. E questo il punto di vista dei tedeschi, che in molti hanno letto in questa chiave. L'effetto si è visto in Europa, tra l'altro, mercoledì. Restiamo ancora sulla Bild, ma non solo i tedeschi se ne occupano. A quanto l'euro per tutti, un altro titolo del quotidiano tedesco, si spiega. La Commissione europea si è posta come obiettivo, in una relazione appunto presentata mercoledì, che tutti gli stati membri aderiscano all'euro, e quindi significa che i giorni della valuta nazionale sono probabilmente contati almeno in 7 paesi. 9 paesi membri dell'Unione europea infatti non hanno l'euro: la Bulgaria, la Danimarca, la Gran Bretagna, la Croazia, la Polonia, la Romania, la Svezia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, ad eccezione appunto della Gran Bretagna, che in ogni caso uscirà. Per gli altri si aprono prospettive diverse, e scrive la Bild, stupisce che questa tesi trovi appoggio in Germania. Tant'è che il ministro federale delle finanze Schäuble è menzionato proprio in questo documento, in cui si parla anche di coraggio politico. E non a caso il giornale tedesco conclude così: un progetto che si sta facendo strada dal momento che il nuovo presidente francese Macron richiede profonde riforme della zona euro, tra cui un ministro delle finanze e un budget per l'intera Europa. Insomma, Merkel stanca di Trump, Macron a Parigi, e allora si guarda alla Cina e l'Europa che prova a cambiare rotta. Allora, lasciando la stampa tedesca, vediamo anche quella francese cosa dice. Le Figaro: l'atteggiamento del presidente degli Stati Uniti con le relazioni transatlantiche instabili potrebbe svegliare un'Europa nel sonno, così scrive Le Figaro. Leggiamo. e capiamo meglio. Donald Trump non è esattamente il principe azzurro, ma potrebbe riuscire in quello che molti europei vedono come un'azione impossibile: far uscire dal torpore una sonnolenta Unione Europea e darle il desiderio di esistere da sola. Insomma, la tesi delle Figaro è Trump che in qualche modo risveglia l'Europa. Leggiamo ancora: il brusco risveglio tra il colpo alla credibilità della NATO e la vicenda del Trattato di Parigi potrebbe tradursi in uno dei pochi successi globali della diplomazia. Tesi di Le Figaro: c'è voluto Trump per svegliare l'Europa. Sarà così, lo vedremo. Le Monde, sempre in Francia, lo trasforma in un discorso concreto, appunto, sul terreno concreto che abbiamo visto dell'euro, e scrive: la Commissione europea propone le sue tracce di riforme della zona euro, sa che si avventura in un campo minato e lo fa con grande cautela, ma parte dal presupposto che lo status quo non è più sostenibile. Questa ipotesi, condivisa a Parigi, dove il presidente Macron ha chiesto appunto la creazione di un bilancio, un parlamento, un superministro della zona euro delle finanze, e scrive però Le Monde, ora forse anche da Berlino. Parigi e Berlino pronte a superare i loro antagonismi, si chiede Le Monde. Non basterebbe però questo Trump che risveglia l'Europa e nemmeno l'asse Berlino-Parigi. Allarghiamo lo sguardo ancora un po' per andare in Spagna. El País scrive: completare l'unione monetaria, questo titolo in settimana, ma aggiunge: le proposte di riforma sono ragionevoli, ma la chiave è il livello di impegno che si desidera accettare a Berlino. Ed ecco che torniamo ancora qui. Il problema, scrive il quotidiano spagnolo, non è la definizione di ciò che deve essere fatto, ma l'impegno che si desidera e si può raggiungere. La versione dei tedeschi e dei suoi satelliti, scrive il quotidiano spagnolo, che prima di qualsiasi cosa l'impegno da assumere, quello della riduzione del debito, non è altro che una scusa, dicono gli spagnoli, per evitare i rischi di condividere e punire invece i paesi debitori. Si tratta di una visione punitiva dell'economia e non lungimirante per un'Europa competitiva. Sempre il Paese, in un altro articolo, tra l'altro, dice: i paesi del nord rifiutano qualsiasi forma di mutualizzazione dei rischi perché non si fidano del sud. I debitori permanenti, come li chiama Mario Draghi, sembrano sul punto di perdere la pazienza con l'eterno Nein di Berlino. Ebbene, anche qui arriviamo alla stessa conclusione, perché anche il Paese scrive: è stato Donald Trump a costringere la cancelliera Merkel a dire che l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. E così, insieme all'asse con l'europeista Macron, si sveglia un asse franco-tedesco che languiva. Per chiudere questo argomento, di cui abbiamo abbondantemente parlato, l'abbiamo visto anche sui giornali italiani, vi leggo solo un breve stralcio di Federico Rampini sulla Repubblica, che scriveva: il G7, ingenuità europea e il miraggio dei 6-1. Scrive: Gentiloni al senso dell'umorismo che ce ne vuole per descrivere Donald Trump come dialogante curioso dopo che di fatto gli ha sabotato il G7. Ma il premier italiano ha ragione: se uno ti taglia la strada e sei un galantuomo, non scendi dall'auto con la mazza da baseball per fracassargli il finestrino. Se poi tu guidi una 500 e lui un tir, il gioco delle ritorsioni è fuori dalla tua portata. Ma, aggiunge, ingenui lo sono anche quegli europei che al termine del summit di Taormina vagheggiano di un risultato 6-1, come se la governance globale potesse ripartire da lì, isolare l'America visto che rema contro, andare avanti lo stesso senza di lei. Ma per andare dove? Intanto la rappresentazione del 6-1 è falsa, perché già c'è la Gran Bretagna di Theresa May che cerca un asse preferenziale con Washington, ma soprattutto il miraggio del 6-1 presuppone un'Unione Europea compatta, decisionista, solidale e funzionale. E la conclusione ovviamente è che ad ora non c'è. E ne avete letto questa settimana anche sul Sole 24 Ore. Dicevamo però, sicuramente questo è stato il grosso tema che si è discusso questa settimana, però cerchiamo sulla stampa straniera, così almeno su quella europea, anche altri spunti. E allora, sempre il País racconta ad esempio che c'è stato invece un fronte unito, tanto per restare a quello che è il rapporto ancora dell'Europa, un fronte unito a Bruxelles, ma unito per chiedere più soldi per YouTube. Questo è il titolo del País. Cos'è successo? Che più di 70 artisti provenienti da tutta Europa stanno chiedendo a gran voce che piattaforme come YouTube o anche Facebook diano un'equa remunerazione. Gli autori europei si sono riuniti a Bruxelles per sollecitare le istituzioni europee, leggiamo del País, che preparano nuove regole per regolamentare il mercato e dall'altra parte alle piattaforme, principali beneficiari di un materiale poco costoso ma ad alto rendimento di pubblicità, di cambiare rotta. La posta in gioco, sappiatelo, è veramente enorme, perché i conti culturali del settore valgono il 4,2% del PIL europeo, 7 milioni di posti di lavoro, quindi parliamo di molto. Altro dibattito, e non è stato solo italiano, lo è stato anche in Europa, è quello dei vaccini. Due quotidiani italiani, ma davvero anche qui le posizioni sono europee. Il Messaggero ha riportato l'intervento del commissario europeo per la salute Andriukaitis, che ha sollecitato pochi investimenti antimorbillo, vuol dire epidemie in Europa, e dice: sebbene i casi di morbillo siano diminuiti del 94% dal 1980, ci sono stati limitati progressi verso l'eliminazione globale del morbillo negli ultimi 5 anni. E non parlo in italiano, ma parla appunto il commissario europeo. Sul Corriere sempre della Sera leggiamo: l'Europa è tornata a rischio poliomielite. Il cardiologo lituano Andriukaitis, che appunto è il commissario europeo, dice: la grande Europa era libera dal 2002, le coperture vaccinali in molti paesi sono troppo basse, il virus circola qui vicino. Non è la prima volta che si torna a parlare dello spettro polio, scrive Silva Turin, riguardo all'Europa. L'ultimo caso americano risale al 1979, nel nostro paese è del 1982. Aspettiamo un nuovo caso di polio in Italia, ci sono migliaia di bambini non vaccinati, il virus è al di là dell'Atlantico in Albania, non abbiamo più tempo, non c'è più quello che si chiama l'effetto gregge, cioè tutti sono vaccinati quindi non circola il virus, perché le coperture sono già sotto il 95%. Quindi un tema questo che non arriva solo dall'Italia, ma di cui si discute anche a livello più internazionale. Solo alcuni spunti come sempre, perché gli argomenti sarebbero davvero tantissimi. Ci fermiamo qui, la prossima settimana ancora con voi Giulia Crivelli. Grazie allora a Valeria Bernardi in regia e ad Anna Migliorati. Un buon proseguimento con Radio 24.